Mi Buon pomeriggio a tutti da Gigi Telesforo, questo è il sound check, la prova del suono numero 36 qui su Radio 24. Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di musica e ai numerosissimi musicisti che negli ultimi giorni con le loro email hanno affollato le nostre caselle di posta elettronica per sostenere la buona musica qui nel nostro paese. Grazie a tutti voi e personalmente vorrei ringraziare Radio 24 e tutto lo staff di Radio 24 per avermi dato l'opportunità quest'anno di tornare a fare radio circondato dalla mia musica preferita, dai miei artisti preferiti. E fra i miei artisti preferiti vorrei tornare a presentarvi il talento di questa giovanissima songwriter americana che arriva dal North Carolina, ovvero Becca Stevens. Becca Stevens, giovanissima, si è preso un bellissimo diploma nell'Università del North Carolina in chitarra classica per poi andarsi a laureare in una delle scuole più importanti di New York, che è The New School for Jazz and Contemporary Music, dove prende una bella laurea con lode in jazz vocale e composizione. In questa scuola incontra quelli che poi sono diventati gli elementi, i musicisti della sua band, ed è proprio in questa scuola che inizia a muovere i primi passi come interprete, come songwriter, compositrice e arrangiatrice. Da qualche anno ormai milita in alcune delle band più prestigiose degli Stati Uniti, ha registrato e fatto concerti con George Garzone, Kendrick Scott, Jeremy Pelt, Brad Meldau, quindi con alcuni fra i musicisti di jazz contemporanei più apprezzati, e ha registrato due dischi. E dall'ultimo album intitolato Weightless vi voglio presentare proprio il brano che dà il titolo a questa pubblicazione, un brano che ci propone una melodia semplice al primo ascolto, quasi una cantilena per bambini, ma che è sorretto da una struttura ritmica e armonica che nasconde una certa complessità, con battute dispari di 3/4 e 5/4. Certo, questo è un dettaglio per musicisti, ma tanto per capire il carattere, lo spessore compositivo di questa giovanissima interprete americana che ci auguriamo di avere prestissimo e di apprezzare prestissimo anche qui in Italia. Becca Stevens Band con Weightless qui al soundcheck di Radio 24. Weightless, il brano che dà il titolo all'album del 2011 di Becca Stevens con la sua band, augurandoci che venga fuori prestissimo un promoter, un management in Italia che ci porti nei nostri teatri questa strepitosa band e questa affascinante interprete americana. Soundcheck, il suono della musica. The story that tell us to delete the feeling of being incomplete from our consciousness, to let these 6 and 7 year olds take a hold of our consciousness, to remind us to laugh, scream, and let our inner child fly higher than deferred dreams seldom seen. Through the lens of love and gratitude, let's give our children love and gratitude. Fly high. Il ritorno a grande richiesta qui al soundcheck di Radio 24 di Leila Hathaway, ospite di Black Radio 2 del pianista Robert Glasper, già anteprima in esclusiva di Radio 24 con questo brano intitolato Jesus Children, che ci spiana la strada per conoscere il sound di un'altra band che in questo momento sta facendo impazzire gli appassionati di funk in giro per il mondo, band chiamata Snarky Puppy, guidata guidata dal bassista, visionario, compositore, arrangiatore e ottimo producer discografico Michael Leigh. Il signor Michael Leigh ha già al suo attivo 5 album con gli Snarky Puppy, ma con questa produzione ha fatto un grandissimo salto di qualità. Il nuovo album si intitola Family Dinner, ovvero la cena di famiglia, e con questo concept Michael Leigh ha riunito tutta la sua numerosissima band, ovvero tutta la sezione ritmica, sezione di fiati, archi e tantissimi cantanti come ospiti in un concert hall lì in Renuke, Virginia, esattamente la Shaftman Performance Hall di questa bellissima scuola dedicata alla musica e all'arte, ovvero la Jefferson High School Land. Michael Leigh ha un concept ben preciso, ovvero quello di utilizzare per la sua Snarky Puppy internet come piattaforma di comunicazione, scavalcando la discografia ufficiale. Produce i suoi dischi da artista indipendente, ma ha capito che deve puntare nella diffusione via internet per poter così racimolare un numero impressionante di concerti in giro per il mondo. Ultimamente si è esibito a Parigi con grandissimo successo, e anche nel caso degli Snarky Puppy speriamo di vederli dal vivo in Italia con il loro sound aggressivo, possente, solido, super funk, che qui ascoltiamo in I'm Not One con la voce di Malika Tyrolean dal vivo Snarky Puppy da Family Dinner al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Qualche giorno fa ho visto in televisione un film molto carino, una commedia brillante americana intitolata nella edizione originale The Big Year, nella versione italiana il film si intitola Un anno da leoni, e questo film ha come protagonisti Steve Martin, Jack Black e Owen Wilson, che interpretano il ruolo di 3 bird watchers, osservatori di uccelli. Negli Stati Uniti ogni anno si tiene The Big Year, che è una gara alla quale partecipano i bird watchers, che si contendono questo trofeo che può essere vinto soltanto da colui che riesce a visualizzare, e naturalmente deve dichiarare in fede la visualizzazione di un numero impressionante di specie diverse di uccelli presenti sul territorio americano, anche senza una documentazione reale, filmata o fotografica. Il film è molto carino, e spicca nel film anche la colonna sonora, bellissima, con composizioni ispirate al mondo degli uccelli, e fra le composizioni c'è anche Blackbird di Paul McCartney, nel film però nella interpretazione pianistica del bravissimo Brad Mehldau. Allora, ho ritirato fuori la versione originale di Blackbird, tratta dal famoso White Album, l'album doppio dei Beatles, e effettivamente il pezzo è strepitoso, il brano è diventato un vero e proprio standard. È meraviglioso notare che nella edizione originale, nella versione originale di Blackbird, probabilmente gli altri Beatles sono in un angolo dello studio, perché il pezzo è stato scritto, composto e realizzato per The White Album esclusivamente da Paul McCartney, ispirato alle tensioni razziali presenti in America nella primavera del 1968. Il brano è stato scritto da Paul McCartney in solitudine in Scozia, e in solitudine è stato realizzato nello studio di registrazione con Paul McCartney, che canta questa bellissima melodia, la suona con la sua chitarra tenendosi il tempo, battendo il piede sul pavimento dello studio, e il suono si sente. Allora gustiamo la versione originale di Blackbird di Paul McCartney qui al Soundcheck di Radio 24. Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting. waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Dal White Album dei Beatles, Paul McCartney nella bellissima Blackbird, brano che abbiamo ritirato fuori dalla nostra discografia dopo aver ascoltato l'interpretazione del pianista Brad Mehldau dalla colonna sonora del film The Big Year. E allora chiudiamo proprio con il trio di Brad Mehldau, appassionato dei Beatles, che qui ci fa ascoltare la sua versione di Dear Prudence. Questo è un brano scritto da John Lennon e Paul McCartney sempre nel 1968, nel periodo quello meditativo indiano, brano scritto da John Lennon dedicato a Prudence Farrow, sorella di Mia Farrow. Ma questo è Brad Mehldau che chiude così il soundcheck di Radio 24. A tutti voi buona giornata, buona musica da GG Telesforo. Soundcheck. Il suono della musica.